www.radioticino.it. Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. Quello di oggi è un appuntamento speciale dedicato agli emergenti. Un cantautore, un duo, anzi un progetto. Luigi Santilli Romano è un manager cantautore per passione. Andrea Orsini è chitarrista, polistrumentista, arrangiatore, con numerose collaborazioni alle spalle e tuttora in corso. Escono con il loro primo album di inediti, L'ultima ovvietà, che va dal country al pop, dal rock alle melodie acustiche. Si chiamano Perimetro Cubo e Luigi Santilli ci racconta tutto di loro. Ero in aereo. E nei giornali che sono lì, che trovi viaggiando, c'era una pubblicità e c'era una citazione di George Bernard Shaw e diceva: non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. E siccome in quel periodo stavo lavorando su delle cose musicali, ho deciso di dargli una veste un po' diversa. E fortunatamente in quel periodo ho anche incontrato un chitarrista, polistrumentista, si chiama Andrea Orsini, che è secondo me un fenomeno, però ovviamente questa frase non deve sentirla, spero che non stia ascoltando la radio. E lui, diciamo, mi ha aiutato a riarrangiare i pezzi con uno spirito diverso rispetto a quelli con cui erano nati, e è nata una cosa molto carina. Poi siamo riusciti a coinvolgere degli altri musicisti bravissimi, fantastici, ci siamo divertiti come dei matti a registrare questo disco. Stiamo continuando a scrivere altre cose, quindi è tutta una cosa che è nata un po' per gioco, un po' per così, senza prendersi troppo sul serio. E siamo anche abbastanza sorpresi che ci sia qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando, che ci dà un po' di retta, quindi è una cosa assolutamente molto molto stimolante. Però è nata così, per gioco, per fare qualcosa di diverso. Che cosa ti dà la musica in una vita in cui tu fai un lavoro impegnativo e anche, possiamo dirlo, piuttosto serio? Mi fa essere un po' più a contatto con me stesso, mi fa vivere dei sogni che magari da giovane avevo un po' accantonato, perché se, da questa frase si capisce che non sono giovanissimo, però diciamo facciamo finta che non l'ho detta. E in realtà sì, è un momento per stare un po' con se stessi in modo diverso. Scrivere a me piace molto, perché quando scrivo è come se parlassi con me stesso, quindi vivono nelle canzoni cose che nella vita di tutti i giorni non riescono a vivere. E poi la cosa più bella è che da questa passione, che è un po' un gioco individuale, unendosi ad altri musicisti e ad altri musicisti che fanno magari della musica la propria vita e quindi in modo molto più professionale, esce fuori qualcosa che ha una magia che da solo chiaramente non puoi neanche immaginare di riuscire a costruire. Sentire poi tutto insieme o suonare dal vivo è una cosa che credo che chi lo faccia, insomma, può capire di che si tratta, insomma, e che emozione dà. Nei tuoi testi ricorre tanto l'idea del cercare persone, cose. Io ho trovato spesso questa idea. Sì, in realtà spero di non essere troppo monotematico nei testi, però in realtà è un tema che ricorre molto, così come ricorre quello del viaggio, inteso in senso fisico e in senso metaforico. È un po' sempre una continua ricerca di qualcosa, o ricerca orientata al futuro e quindi stimoli, incontri, o anche ricerca nel proprio passato, quindi analisi di cose che sono andate diversamente da come magari avresti voluto, un po' di rimpianti, un po' di rimorsi. E comunque sì, c'è sempre molta ricerca, assolutamente, e come dicevo prima, è un po' un modo per parlare con me stesso, guardarmi dentro con occhi diversi rispetto a quelli che uso tutti i giorni. A volte non capisco se stai parlando d'amore, se stai parlando d'altro, perché non sei mai chiaro in questo, eh? È fatto un po' apposta, nel senso che una delle cose che mi sono imposto un po' scherzando è di non fare mai canzoni d'amore che parlassero espressamente d'amore, ma diciamo di vivere un po' le passioni in un modo un po' più arzigogolato, se si può dire, in modo un po' più indiretto, cioè andando un po' a vedere le sensazioni che ti scatenano nella pancia o anche i pensieri anche un po' tristi, magari qualche volta associati ai sentimenti, alle passioni. Quindi non mi piacerebbe, diciamo, scrivere la classica canzone d'amore inteso in senso un po' così tradizionale. Poi mi ricordo sempre che che non so, c'era un famoso attore che diceva che in realtà tu riesci a scrivere qualcosa solo quando sei triste, cioè le belle sensazioni non riesci mai a esprimerle, cioè per scrivere qualcosa devi stare un po' soffrire, un po' male, no? Mi sembra fosse Troisi che diceva adesso sto proprio male, quindi adesso posso scrivere un sacco di roba, quindi in realtà in tutto questo c'è anche un po' un andare a cercare in qualche momento un po' più scuro della propria vita, delle sensazioni che magari in una canzone riescono a essere un po' così come filtrate e viste con una luce diversa. La valigia ci pieghi anche la vita, vecchi libri, i tuoi occhi, i miei gilet, in una tasca bucata a 2 lire, l'altra il sole, me ne vado al mare, vorrei, vorrei, vorrei. Vorrei, vorrei. E adesso vorrei dirti, ma chissà se sei ancora da ascoltare, che non c'è vita senza amore, non c'è vita senza il mare. Allora amore, andiamo insieme al mare. Tra mille splendide, fantastiche, nostalgiche, romantiche, bambole isteriche. Quante volte tutta sola avrei chiesto al vento una carezza in più. Parlando di attori, una delle cose che volevo chiederti era proprio il fatto che ci sono molte immagini nei tuoi pezzi, come se fossero fotogrammi di film, è una cosa cosciente, e tutto questo come hai deciso di farlo diventare anche un video? Perché non è scontato poi fare un video. Sì, ci sono molte immagini perché credo che a me piace giocare con le parole, quindi mi piace costruire un po' come dipingere in qualche modo e ripeto, siccome in realtà non l'ho mai fatto con un obiettivo professionale, cioè non l'ho mai fatto per vendere un pezzo o perché qualcuno lo ascoltasse, mi divertivo molto a dipingere come quelli che fanno un quadro e se lo tengono poi nel cassetto, quindi in realtà hai la massima libertà espressiva e cerchi di fare qualcosa che ti dica qualcosa, che ti dia dei messaggi. Dopodiché diventava necessario, e questa è stata l'idea del video, associare a queste parole, a questi suoni, proprio quasi dei film, cioè nei pochi video che abbiamo realizzato finora c'è più che l'idea di noi che suoniamo in una sala o cose del genere, ci è piaciuto raccontare un po' di storie, di quasi fare delle piccole trame con degli attori e incentrare molto sui personaggi, diciamo, più che sulla canzone, sui musicisti, sui personaggi del video, e cercare di creare una comunicazione che fosse un po' multimediale, no? Nel senso che ci sono le parole, c'è una musica che comunque in qualche modo si vuole mescolare le parole e ci sono le immagini che speriamo in qualche modo c'entrino con il resto. Gli obiettivi adesso? E gli obiettivi è una parola grossa. Gli obiettivi è come dicevo, un po' come se hai scritto un libro, qualcuno te lo dice carino, facciamolo leggere. Quindi l'obiettivo principale è che tanta più gente possibile, diciamo, conosca questo progetto, più che le persone, i pezzi. A me piacerebbe, a me e ovviamente ad Andrea, che soprattutto, diciamo, che questi pezzi fossero conosciuti. Personalmente sarei contentissimo anche se qualcuno si accorgesse di quanto è bravo il chitarrista, perché, diciamo, a parte chi ha scritto i pezzi, c'è veramente un fenomeno alla chitarra. E siccome è anche un po' più giovane di me, diciamo, gli auguro in realtà di poter fare 50 anni di perimetro cubo e anche qualcos'altro in futuro. Adesso stiamo scrivendo altre cose, quindi penso che usciremo con qualcosa all'inizio del prossimo anno per arricchire un po' il repertorio e penso che in autunno inizieremo a fare qualche serata. Ma quando i tuoi colleghi hanno scoperto o scoprono che dietro quella giacca, quella cravatta c'è un musicista, un autore? Beh, diciamo che molti lo sanno da tanto tempo, quindi in realtà non è un segreto. Per qualcun altro è stata obiettivamente una sorpresa. E sì, ti guardano con una faccia strana. La cosa più divertente sono le colleghe che ti dicono che i bambini in macchina canticchiano la canzone a memoria. Questo capita molto con 10, che è il pezzo che è passato in radio. O con altre canzoni, ci sono dei bambini che espressamente chiedono di mettere il disco e poi cantano la canzone a memoria. Questa è una cosa fantastica, cioè, voglio dire, non so quanti grandi cantanti possono dire di aver raggiunto questo risultato nella loro vita. È nato a Belpasso, in provincia di Catania. Grazie ai suoi genitori insegnanti di danza, Maurizio si avvicina subito all'arte e alla musica. Arriva alla finale del premio Fabrizio De André nel 2010, partecipa ad Area Sanremo nel 2011. Nel 2015 il primo singolo, Non te la tirare. Ora il secondo singolo, Hai capito, con cui sta girando le radio indipendenti e universitarie di tutta Italia. Lui è Maurizio Chi. Maurizio Chi. Maurizio è un cantautore, è un ballerino, un danzatore, perché provengo dalla danza, sono un preparatore atletico per danzatori appunto di danza classica e danza contemporanea. E da 13 anni ho questa passione, questo amore misurato per la musica, ma soprattutto per la scrittura. Per 13 anni è stato tenuto così, diciamo, un po' non nel cassetto, ma nello studio, per essere proprio precisi, e finché con il mio produttore musicale, che è Placido Salomone, non abbiamo deciso appunto di buttare fuori il nostro operato, quello che avevamo pensato, elaborato, ma anche l'esperienza che avevamo maturato appunto in questi anni. Sono una persona abbastanza energica, abbastanza positiva, e spero che questo possa passare nella mia musica nel tempo agli altri, a chi l'ascolterà. Testi un po' allegri, un po' sentimentali, atmosfere diverse. Dove ti ispiri? Da dove nascono le tue ispirazioni? Beh, sicuramente, essendo proprio così cangianti, l'ispirazione è indubbiamente arriva dalla mia vita. Cioè, non faccio musica solo per inventare delle storie. Faccio musica perché ho proprio bisogno di esprimere, ho trovato un modo per esprimere quello che io vivo quotidianamente, per cui si passa dall'ironia di Non te la tirare, che sono fatti realmente accaduti in spiaggia, che capitano tutte le estati, fino all'incomprensione di Hai capito e al confronto degli occhi al mare. Ma è tutta la mia vita quella, cioè mentirei nel dire che ho preso ispirazione da chissà che cosa. Poi musicalmente io credo che ormai i tempi sono anche maturi per mettere, diciamo, a noi pseudo emergenti di spaziare, perché ormai le persone siamo tante cose, viviamo tante esperienze giornalmente, quotidianamente, per cui ci esprimiamo laddove ci è possibile con tutto quello che abbiamo, con tutto quello che sentiamo. Sogni, progetti e viaggi da rifare, tutta l'ironia che si dovrà riconquistare, gli occhi al mare per non dimenticare che per non naufragare ci si deve confrontare. Sogni, progetti e viaggi da rifare, tutta l'ironia che si dovrà riconquistare, gli occhi al mare per non dimenticare che per non naufragare ci si deve confrontare. Bisognerà andare a riva per poter ammirare la bellezza del tramonto, amor mio. Abbiamo tutta la vita per riuscire a virare, prima parti e prima arrivi, si sa. Ed avvistare la meta quando sei in alto mare, dai, già speso tutte le energie. Amore, questo è un naufragio sul serio. Per farti conoscere, in questi mesi hai girato le radio locali in Italia, hai girato tanto l'Italia. Che idea ti sei fatto? Che Italia hai conosciuto? Un'Italia, ad essere sincero, un'Italia disordinata, però un'Italia ancora viva, fatta di persone semplici che vivono la radio in una maniera ancora semplice. Ci sono delle zone dove sono stato, ho partecipato a delle trasmissioni dove il padre era conduttore insieme al figlio di 11 anni di una trasmissione in un paese vicino Pistoia, per esempio, ed è uno dei ricordi che mi sono portato dietro dal punto di vista umano importanti. C'è un'Italia musicalmente disordinata, ma ancora viva, e forse ancora a sete di quel meccanismo tradizionale che è appunto la radio. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità, per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo. La domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Voce in scena. La seconda voce in scena di oggi è quella di un emergente già di una certa esperienza. Nasce nella provincia di Taranto, studia musica fin da bambino e dopo essere stato folgorato dal punk rock californiano inizia a fare gavetta con i Ranks, band con cui realizza 10 tra dischi e compilation di Sky Punk e con cui si esibisce live in tutta la Puglia. Intanto si laurea in musicologia con una tesi di ricerca in iconografia musicale, incentrata sull'importanza sociale della figura del musicista nel Medioevo. Nel 2010 pubblica il suo primo EP Come Sempre, nel 2011 è semifinalista del premio De André e finalista dell'Unezia. Nel 2012 il disco Sulla stessa via. Nel 2015 esce il suo album Sfumature volume 1. Lui è Emanuele Barbati. Ho questo vizio di partire dal titolo, però sì. Se tu mi chiami un album Sfumature volume 1, allora un po' mi suona come quelle vecchie raccolte che un tempo si trovavano anche nelle cassettine volume 1, volume 2. Però Sfumature volume 1, la domanda è banalissima, quindi è il primo di cosa? È il primo almeno di un doppio, quindi stiamo lavorando al volume 2. No, però hai ragione tu, in realtà io sono molto affezionato a questa visione un po' vintage della musica, ma anche del supporto, visto che anche i CD stanno iniziando a diventare una cosa un po' inusuale, proprio da trovare. Però mi piaceva dargli proprio questo aspetto un po' più curato, un po' più retro, anche nel nome. Non lo so, io sono un po' nostalgico in generale, vivo di nostalgia ogni tanto, quindi anche Sfumature volume 1 mi piaceva proprio come suono, richiamava queste cose qui. Foto coi colori un po' virati, come se fossero foto di estate di qualche anno fa, testi scritti a macchina, sì. Riporta un po' agli anni in cui la musica con un sapore un po' estivo era uno stile molto preciso. C'è qualcosa di quegli anni e di quella volontà, di quel sapore? Sì, sicuramente il fatto di volersi prendere il tempo giusto per fare il disco. I testi a macchina li ho battuti io perché volevo prendermi il gusto di farlo. Ed in generale volevo dargli una dimensione particolare, nel senso che volevo un po' non fare tutto di corsa come si usa fare ora anche con la musica. Capita spessissimo che si usano i singoli buttati lì ogni due mesi perché la gente ascolta una volta il singolo, guarda il video tre volte e poi basta, ha bisogno di altro, è tutto molto veloce. E almeno per quanto mi riguarda volevo dare il tempo necessario, quello giusto, alle mie cose. Un'onda carezza i tuoi piedi già umidi, sorride al tramonto e poi te ne vai. Latte di cocco ed olio di mandorle, i soli profumi che ricorderai. Un'altra giornata passata lontano dai guai, un'altra giornata che vorrei non finisse mai. Ancora poche ore, questo buio dovrà darmi ragione. Ed eccomi il sole, ti nutrirò di caldo di mare, poi balleremo per ore. Ed eccomi il sole, ancora poche ore, questo buio dovrà darmi ragione. Ed eccomi il sole, ti nutrirò di caldo di mare, poi balleremo per ore. Quando compro un cappello spero che chi me lo sta vendendo sia un appassionato di cappelli. Ognuno dovrebbe poter vendere le proprie passioni e all'interno nei ringraziamenti ribadisci il fatto che ringrazi per aver avuto questa possibilità di seguire una passione, un sogno, di concederti questo lusso, di avere questa fortuna. Sì, io non sono un pessimista di natura, però diciamo che guardo con molta diffidenza un po' le relazioni umane ultimamente, ed ho escogitato questa mia frase, perché ho sempre pensato, insomma, sono sicuro che chi riesce nella vita a fare quello che ama non può che essere felice, e quindi la felicità scatena la felicità di conseguenza. Ma questo è un discorso, potremmo parlarne un giorno, no? Sul fatto che tutti dovrebbero avere la possibilità di fare quello per cui sono nati. Io sono convinto che ognuno di noi è nato con un preciso talento, molti dei quali, molte persone però non lo sanno, o non lo vogliono sapere, altri non possono saperlo. Quindi se tutti lo sapessero sarebbe un mondo bello. E odiare te è stato facile, un po' meno odiar me. Che mai odierebbe una come te, che odia uno come me. Ma io non avrò paura, io non avrò paura, io non avrò paura quando mi rincontrerai. È un mondo anche affollato quello della musica. Tu come lo affronti? Con che stato d'animo? Io ho un doppio stato d'animo quando parliamo di musica, perché in generale sono molto contento di confrontarmi con i miei colleghi, molto meno quando vedo tanta gente che entra all'interno dell'ambito musicale come se fosse un'arte marziale, neanche, come se fosse proprio pugilato da strada, e quindi con la visione della sfida all'interno della musica l'ho sempre detestata in maniera proprio viscerale. Mi piace molto di più poter parlare di una scena quando si tratta di colleghi, e quindi non temo il fatto che ci siano tanti cantatori, ma temo molto di più che ci siano tanti lottatori aspiranti a cantanti. Dopotutto, per uno che viene, anche se a vederti non si direbbe, dal punk, è niente di più lontano dall'arena, il punk, anzi è anarchia e libertà. Sì, infatti, io sono devo molto la mia militanza nel punk e nello ska, perché ho imparato ad affrontare tutti i palchi con la massima umiltà. Quindi ho suonato in dei posti squalidissimi, in dei posti molto belli, dando soltanto, insomma, quello che facevo, senza troppi fronzoli. E questo mi aiuta anche ora in questo ambito pop, no? Di solito la parola pop fa un po' chic, oppure uno che non vuole prendere posizioni. Invece a me ricorda molto di più la strada, perché devi confrontarti con tutti. E quindi questo fa sì che non ti sembri tanto azzardato passare dal punk allo ska al pop, perché effettivamente colpisce come cambiamento. Sì, colpisce secondo me più che altro quando qualcuno ha bisogno di fare dei generi, quindi di metterti da qualche parte per forza. Io vengo da ascolti molto differenti, quindi dai cantautori al punk rock. Per me è assolutamente normale ascoltare i Renzi e De Gregori nella stessa mezz'ora in macchina, quindi l'affronto così. Una sera di settembre, odore di mare sulla tua pelle, negli occhi tuoi la mia libertà. Io con in mano le mie parole, come un sole che vuole sparire, con gli ultimi passi che faccio con te. È un peccato, dicevi, dopo tutto sai. Ci sono due aspetti fondamentali. La scena pugliese, che è un po' a doppio taglio, perché il Salento è terra ricchissima, ma anche appunto, esatto, ma anche rischia di essere quasi un'etichetta. Sì, perché intanto inizia un po' lo stereotipo del Salento, quindi l'estate in vacanza. Dall'altra parte c'è invece la realtà più scottante, che ad esempio per me che sono tarantino, è tutto l'ambito sociale dell'Ilva e delle lotte ambientali. Io ho sempre amato non appartenere troppo alle categorie, quindi mi piace fare dei giri da una parte all'altra. Però sì, il Salento poi ti dà la possibilità di parlare della tua musica a chi vuole parlare di vacanze, le lotte sociali a chi vuole farti tornare un po' nel punk. Una firma che dice molto a chi mastica di musica è quella di Roberto Vernetti, una firma pesante per la realizzazione di un disco. Sì, in realtà per me è stato un grande aiuto, perché affidare delle proprie canzoni ad un produttore è sempre molto difficile, è come dare un figlio appena nato e ritrovarselo adolescente con la cresta, per esempio. Quindi, oppure che so che poteva andare peggio e magari uno che voleva andare ad amici. Credo che tu non ci abbia mai neanche provato a sentirti parlare così. Ma neanche. No, su questo sono molto politicamente scorretto, perché no, in questo mi piace prendere parte quando si parla di talent. Tornando a Roberto Vernetti, insomma, per me è stato molto importante, perché è stato un produttore intelligente, perché ha voluto capire da dove arrivassi, per capire insieme poi dove andare con questi brani. E credo che per un cantautore sia molto importante avere questo confronto, per me è stato molto utile. Come questa storia che hai tradotto Il piccolo principe in salentino? Sì, che tra l'altro ho presentato la settimana scorsa. Sono stato contentissimo, perché è stato un successo inaspettato per me. Io di solito faccio le cose perché mi piace farle, quindi quando poi la gente viene ai concerti oppure viene alle presentazioni del libro, in questo caso, e praticamente mi sono ritrovato con questa sala che non era assolutamente sufficiente per accogliere tutti, e ho detto, quindi era interessante l'idea. E ho tradotto Il piccolo principe in dialetto perché per due motivi principali. Il primo era perché Il piccolo principe è uno dei libri più tradotti, e quindi volevo lanciarmi in questa sfida, perché amo molto leggere, e perché Il piccolo principe è uno di quei testi che un po' ogni tanto è venuto a prendermi proprio per i capelli in alcune storie della mia vita, e volevo tributargli questa cosa. Per me è stato come insegnare al piccolo principe a parlare il dialetto, niente di più niente di meno, ed è stato molto interessante. Ed è tutto per l'appuntamento con Voci in Scena di oggi. Ancora un saluto da Marta Cagnola.